I lavori di domani, di Anna Marino. In questi ultimi mesi si sente parlare molto di tecnologie applicate al settore immobiliare, conseguenza dello sviluppo di questo trend e la nascita di nuove professioni, tra cui quella del vivacizzatore d'aste. In Italia al momento ci sono solo 130 vivacizzatori d'asta, ma il numero è in costante aumento. Il ruolo del vivacizzatore è quello di fare in modo di invertire il trend delle aste andate deserte e di permettere di vendere un immobile all'asta al prezzo più equo possibile, anche a favore di chi purtroppo si trova in una situazione di emergenza economica. Per farlo, il vivacizzatore si avvale ovviamente di una professionalità e di un'esperienza nel settore, ma anche di tecnologie, per esempio l'intelligenza artificiale, che lo aiutano ad abbattere i rischi e a prevedere i valori degli immobili. Ecco come si arriva a questa professione in espansione? Lo chiediamo e chiediamo di che cosa si tratta a Giulio Licenza, vivacizzatore d'aste. Una volta nel mercato immobiliare esistevano soltanto i privati o le società che vendevano gli immobili. Adesso, in questo periodo, dopo quindi la crisi economica, sono diventati dei venditori anche le banche, che quindi hanno bisogno di vendere gli immobili tramite le aste giudiziarie per riuscire a recuperare i loro crediti e poter rimettere denaro di nuovo nella società. Questo cambiamento di mercato ha fatto sì che nascano delle nuove figure, quindi come quella del vivacizzatore delle aste. Di fatto è un professionista delle aste, quindi una persona esperta nel mercato delle aste immobiliari, che utilizza il proprio network di investitori o di privati per farli partecipare alle aste, aiutando così le banche a vendere un maggior numero di immobili in asta e a recuperare un maggior valore di denaro. Ecco, il vivacizzatore non è un moderatore, diciamo, è qualcuno che in realtà appunto queste aste le implementa, le sviluppa, le rende anche vivaci. Come si fa? Che cosa fai praticamente nella tua giornata in cui hai questo ruolo? Questa figura che abbiamo inventato noi nel 2017 è una figura che ha un'esperienza immobiliare e anche una leva forte commerciale. Quindi che cosa fa? Oltre a individuare quali sono gli immobili in asta, quindi oltre a guardare gli immobili all'interno della piattaforma, poi effettua le sue valutazioni, spesso va a vederli anche in prima persona, effettua dei preventivi di ristrutturazione e dei calcoli su quali possono essere degli sviluppi in termini di investimento immobiliare, no? Per renderci un po' l'idea, acquistare l'immobile, rivalorizzarlo e poi rivenderlo. Il momento dell'asta come si svolge grazie al suo ruolo? Quello di far sì che il maggior numero di persone partecipano alle aste, stimolando qui la competizione, per far sì quindi che gli immobili siano venduti a un prezzo più coerente con quello di mercato. Perché vedi, il problema grande è quello che gli immobili in asta sono davvero tanti, sono più di 160.000 gli immobili che vanno in asta ogni anno, e di questi se ne vende soltanto una piccola percentuale, perché il 72% delle aste ogni anno hanno esito deserte, che significa che non si presenta nessuno e l'immobile si svaluta ogni volta del 25%. E qui è necessario il ruolo appunto di qualcuno che le renda appetibili. La tua giornata tipo qual è? Inizia guardando la piattaforma Reviva, dove sono appunto caricati gli immobili che ci affidano le banche o queste società che gestiscono i crediti, gli NPL. Di questi immobili si va a individuare poi quali sono i più interessanti, i più appetibili da proporre ai propri clienti, e da lì poi inizia tutta la parte di analisi dell'operazione, quindi creare un po' una struttura, un business plan dei costi per sviluppare l'operazione immobiliare o aiutare il privato a capire quali sono i costi legati all'acquisto dell'immobile. Visto che tu muovi denaro, qual è la forchetta di guadagno per il tuo lavoro, anche ovviamente a seconda della seniority? È un professionista delle aste che può essere o un piccolo investitore col suo club deal di investitori finanziatori, o un agente o consulente immobiliare. Abbiamo quindi quelli che lo fanno per creare delle entrate aggiuntive, che possono guadagnare tranquillamente 6-7 mila euro all'anno, o quelli che lo fanno a tempo pieno, che possono tranquillamente guadagnare oltre 30 mila euro l'anno. Ecco, sono tutti partita IVA, quindi parliamo di fatturato. Dove ti sei formato tu? Qual è il tuo percorso per arrivare ad essere il vivacizzatore d'aste, soprattutto anche a che età? Io ho iniziato molto giovane a lavorare nel mercato delle aste immobiliari, ho iniziato a 25 anni. Non c'è un vero e proprio percorso accademico di formazione. Diciamo che quello che è importante è avere delle nozioni anche base nel mercato immobiliare, poi le nozioni specifiche del codice di procedura civile, cioè su come si svolge l'asta. Poi quello che fa davvero la differenza è l'attitudine, quindi avere focus, costanza e anche delle buone capacità commerciali. che permettono di coinvolgere le persone in questo progetto, quindi nel riuscire a portare le persone in asta. È una formazione che è accessibile, ci si può anche formare online in questo periodo, si può anche svolgere la professione online perché siamo, diciamo, anche in un'emergenza, ma poi comunque ormai si è aggiunta questa nostra dimensione virtuale alla nostra vita professionale. Assolutamente sì. Allora, in primo luogo anche noi in Reviva diamo diverse possibilità di formarsi e diamo completa assistenza a tutti i vivacizzatori, quindi c'è una sorta di train on job, nel senso si inizia con una competenza base che chiediamo di aver partecipato già prima ad almeno 5 aste e successivamente c'è una costante formazione e assistenza. Ovviamente riusciamo a fare tutto da remoto, la nostra rete è di 130 vivacizzatori su tutto il territorio nazionale, quindi sono gestiti da Milano, quindi si riesce a portare avanti tutto da remoto. Quello che facciamo in tema di reclutamento di noi vivacizzatori attualmente è un unico canale, quello disponibile, che è attraverso il nostro sito vivacizzazioneaste.com, dove compilando un form ci si può candidare per diventare dei vivacizzatori. Quali percorsi consigli per la formazione della tua figura, per chi vuole essere come te, insomma? Le cose più importanti sono l'attitudine, nel senso le competenze da avere per fare vivacizzatore aste sono quelle che saranno un po' per partecipare alle aste, quindi diciamo ci vanno alcune competenze specifiche dell'immobiliare, alcune del codice di procedura civile e ci va un bel network di contatti e capacità di incentivare appunto le persone poi a partecipare alle asta, quindi diciamo non c'è un vero e proprio percorso di formazione stabilito dove si possono reperire in un unico luogo tutte le formazioni, ma ci stiamo muovendo anche noi in tal senso per creare, speriamo presto, un'accademia di formazione completa per questa nuova figura. Certo, abbiamo visto prima che è ben remunerato, è molto ricercato e dove si può trovare? Allora, siamo noi gli unici, l'unico modo per candidarsi per diventare vivacizzatori e appunto tramite form online vivacizzazioneaste.com. Sono circa 130 adesso i vivacizzatori su tutto il territorio. Per logiche territoriali abbiamo un numero chiuso perché ovviamente in base a ogni zona d'Italia possiamo prendere soltanto un numero stabilito, sennò andare in esubero non sarebbe vantaggioso per nessuno. In questo modo abbiamo previsto che entro fine anno li raddoppieremo, arriveremo circa a 260, quindi sono aperte le candidature. Che tipo di sviluppo vedi però per il futuro della tua figura? Più solidale, perché fondamentalmente spesso le case messe in asta arrivano da certi problemi o magari come dire potrebbe agevolare anche chi cerca e magari ha meno disponibilità? Esatto, in realtà una cosa che purtroppo tante persone non sanno è il grande valore etico di quello che facciamo. Per questo motivo, un immobile che normalmente viene venduto all'asta a prezzi molto bassi rispetto al valore di mercato, quando poi non riesce quindi a sanare il debito del debitore, facciamo un esempio non pratico, un debito di 100.000 euro e l'immobile che viene venduto a 50.000, la restante parte rimane come debito in capo al debitore. Quello che fa quindi il vivacizzatore è stimolare la partecipazione e rendere più fruibile questo mercato delle aste, che sappiamo essere ancora un po' demonizzato, soprattutto dai privati che cercano una casa, e far sì che l'immobile vada venduto a un prezzo più coerente con il reale valore di mercato, quindi che vada venduto a 100.000 in modo da poter quantomeno saldare i debiti del debitore e fargli riprendere la vita serenamente. Una funzione comunque anche sociale, fondamentalmente per ripianare un mercato che certe volte arriva da emergenze. Come vedi il futuro del tuo lavoro? Il mercato degli immobili in asta sicuramente ha ancora tanti passi avanti da fare in termini tecnologico, perché appunto il processo che deve seguire un immobile per essere venduto non avviene tramite le classiche agenzie immobiliari o le vendite dalle società costruttrici, ma passa attraverso il processo del tribunale, che tante volte è tortuoso e molto burocratico. Quindi sicuramente ci sono ancora ampi margini di miglioramento tecnologico e noi in questo senso ci stiamo muovendo per fornire strumenti a supporto di tutte le attività dei vivacizzatori. Per esempio abbiamo creato un software che valuta gli immobili e che li aiuta a comprendere velocemente qual è il reale valore di mercato di quell'immobile, perché questo è uno dei motivi che tante volte allontana i partecipanti. Il fatto di vedere un immobile, per esempio, in asta 100.000 euro e la domanda è: ok, ma ne vale 50.000 o ne vale 200.000? In questo modo, dandogli noi la valutazione, riusciamo a fargli meglio comprendere qual è il reale valore di mercato e in questo modo aiutare, favorire la partecipazione all'asta. Importante che si partecipi. Esattamente. Importante partecipare.